Capitolo 26, 23 settembre. Gli ospiti sono arrivati da 3 settimane. Lord e Lady Loboraff sono sposati da più di 8 mesi e devo dare ragione alla signora quando dice che suo marito in effetti è un altro uomo, cambiato decisamente in meglio dall'ultima volta che l'ho visto, sia nell'aspetto che nell'umore. Potrebbe comunque migliorare ancora. Non sempre, infatti, è ben disposto e lei se ne lamenta spesso. Anche se dovrebbe essere l'ultima persona a farlo, dato che i malumori non sono quasi mai diretti a lei, se non in rarissimi casi, quando assume un atteggiamento che leverebbe la pazienza anche a un santo. In generale lui la adora e per lei farebbe qualsiasi cosa. Dal canto suo, lei è cosciente di avere tutto questo potere su di lui e lo utilizza rammentandosi sempre che far le moine funziona meglio che dare ordini. Si comporta come una despota, quindi, capace di stemperare l'autorità con lusinghe e smancerie che lo tengano nell'illusione di essere un uomo amato e soddisfatto. Ciò nonostante capita che si incupisca anche in sua presenza e solitamente non dipende da un cattivo umore, ma da una delusione. Magari è per via di qualche eccesso nel carattere di Annabella o di un commento che lei ha fatto screditando opinioni a cui lui tiene. O qualche sventatezza che gli fa dubitare che la sua signora sia effettivamente tanto buona quanto affascinante e amata. Ha la mia piena compassione, poiché so bene quanto possa essere doloroso un simile rimpianto. Annabella si diverte a provocarlo anche in un altro modo che tormenterebbe anche me se avessi deciso di lasciarglielo fare. Ossia, non fa che stuzzicare il signor Huntington, che ben volentieri sta al suo gioco. Io non mi angoscio perché so che per Arthur si tratta solo di vanità e voglia di farmi ingelosire, al limite di fare un dispetto al suo amico, mentre lei, che pure è animata dallo stesso intento, mette in gioco una certa cattiveria. Il mio obiettivo è quello di deluderli entrambi, mostrandomi tranquilla e disinteressata, pienamente fiduciosa in mio marito e indifferente alla malizia seduttiva della mia bella ospite. Finora non ho mai rimproverato Arthur. Tranne che in un'occasione, quando ha deriso l'umore cupo e angosciato di Loboraf in seguito a una delle loro solite scenette, sebbene particolarmente provocatoria. In quel caso sì, l'ho rimproverato severamente. Lui mi ha chiesto ridendo: "Sei triste per lui, non è vero?" "Sono triste per tutti quelli che subiscono un trattamento ingiusto e per chi li tormenta", gli ho risposto. "Oh, su via, Helen, sei gelosa anche tu." E ha riso ancora più forte. Non sono riuscita in alcun modo a farlo ragionare. Dopo quell'episodio, quindi, ho ritenuto di non dovermi più esporre e di lasciare che Lord Loboraf si difendesse da sé. Eppure, per quanto si sforzi di dissimulare il suo disagio meglio che può, non possiede la forza d'animo e la lucidità necessarie a farlo bene come me. Glielo si legge negli occhi che è turbato. E il malumore trabocca ogni tanto senza tuttavia sfociare in una rabbia vera e propria, anche perché i due non esagerano mai a tal punto da provocare reazioni più serie. Devo dire che a volte mi sento anche io gelosa. In modo particolare è doloroso quando Annabella canta e suona per lui e lo vedo appoggiarsi al pianoforte, beato, e so che non sta fingendo. Io non riesco mai a suscitare in lui la stessa ammirazione. Posso intrattenerlo, sì, ma non certo entusiasmarlo così. Se solo lo volessi, mi potrei anche vendicare, dato che il signor Hargrave è molto affabile e premuroso con me, specialmente quando Arthur mi trascura. Non ho ancora capito se lo fa perché mi compatisce o se vuole che si noti la differenza tra le sue attenzioni e il comportamento del suo amico, ma in entrambi i casi lo trovo molto spiacevole. Se Arthur è negligente, non è certo gradevole osservare questo difetto ingigantito dal confronto e al tempo stesso essere compatita in quanto moglie trascurata, quando in realtà non lo sono affatto. Lo trovo offensivo. Cerco comunque di essere cortese e affabile con il nostro ospite, per buona educazione, anche considerando che, a onor del vero, è di buona compagnia. Dimostra una notevole cultura e buon gusto. Ed è piacevole conversare con lui di argomenti che con Arthur è impensabile affrontare, perché non li trova in alcun modo interessanti. Tuttavia, Arthur soffre quando mi vede parlare con lui e non sopporta neppure i più normali scambi di reciproca cortesia. Non che mi ritenga degna di sfiducia o che sospetti del suo amico, ma semplicemente non sopporta che io trovi piacevole stare in compagnia di qualcuno che non sia lui. È il mio sole, e lo sa, ma quando mi toglie la luce vorrebbe che restassi al buio, e non che mi trovassi una luna a compensare la sua assenza. Non lo trovo giusto, e a volte mi viene la tentazione di fargli dispetto, ma la dominerò. Se mi accorgerò che esagera, troverò il modo di farlo smettere. 28 settembre. Ieri siamo andati al Grove, la dimora dimenticata del signor Hargrave, dove sua madre ci invita spesso per godersi un po' la compagnia del suo amato Walter. Questa volta ci ha invitati a cena per presentarci la nobiltà terriera del vicinato. Una serata molto ben organizzata che mi sono domandata per tutto il tempo chissà quanto sarà costata. A me la signora Hargrave non piace, la trovo fredda, presuntuosa e sin troppo mondana. Con i soldi che ha potrebbe vivere più che dignitosamente se solo fosse in grado di amministrarli con un po' di parsimonia e insegnasse a suo figlio come fare. Invece fa di tutto per mettersi in mostra, mossa da quella forma di orgoglio che vive la povertà come una vergogna. Esaurisce i suoi dipendenti, sovraccarica i domestici e non concede neppure a se stesso e alle sue figlie di godere appieno i piaceri della vita, e solo perché non vuole riconoscere di essere inferiore nemmeno a chi è 3 volte più ricco di lei, e desidera vedere il figlio camminare a testa alta anche davanti al maggiore tra i nobili del vicinato. Inoltre, da quel che ho capito, il figlio conduce una vita piuttosto costosa. Non tanto perché sia uno che va in giro a sperperare soldi, quanto perché ama circondarsi di cose belle e assecondare di tanto in tanto qualche piacere tipicamente giovanile, più che altro per non perdere la reputazione di essere un uomo di mondo. Il membro più rispettabile della sua combriccola di libertini. È troppo egoista per riflettere su quanto potrebbe vivere meglio sua madre o le sue sorelle con il denaro che spende per se stesso. A lui basta che appaiano dignitose quando si recano a Londra una volta all'anno. Non gliene importa nulla se vivono in economia, angosciandosi per le questioni domestiche. Ho delineato forse un ritratto molto severo del buon vecchio Walter, ma fedele, temo. L'ansia della signora Hargrave di vedere le proprie figlie sposate e bene è al tempo stesso la causa e l'effetto di questi comportamenti sbagliati. Ostentando ricchezze che in realtà non ha, può sperare di sistemare le figlie nel migliore dei modi, eppure, vivendo ben oltre le sue possibilità e dando così tanto al figlio, finisce per lasciare le ragazze al verde e completamente dipendenti da lei. La buona Millicent è una vittima di questa condotta incauta e sua madre è convinta di avere agito per il meglio, di essere stata un'ottima madre e spera di riuscire a fare la stessa cosa anche con Esther. Esther, però, è ancora piccola. Non è che una vivace 14enne, mite e sincera come la sorella, ma con un'audacia tutta sua che sicuramente la madre avrà difficoltà a piegare. Capitolo 27. 9 ottobre. Gli uomini sono a caccia e Lady Lauborough è impegnata con la sua corrispondenza, mentre io ne approfitterò per tornare al mio diario e raccontare cose che mi auguro di non dover descrivere mai più. Il 4 sera dopo il tè, Annabella aveva appena finito di cantare e suonare con Arthur, seduto accanto a lei, come sempre. La canzone era finita, ma lei era rimasta seduta al pianoforte e lui, poggiato allo schienale della sedia, le parlava tenendosi molto vicino al suo volto. Ho notato che Lord Loborough, che stava conversando con i signori Hargrave e Grimsby dall'altra parte della stanza, aveva guardato sua moglie e il padrone di casa con una profonda apprensione che a quanto pare divertiva Grimsby. Ero determinata a interrompere quello scambio, dunque mi sono alzata, ho scelto uno spartito e mi sono diretta verso il piano per chiedere alla signora di suonarlo. Mentre mi avvicinavo, però, sono rimasta paralizzata vedendo il modo in cui lei, tutta rossa in volto, ascoltava quel che Arthur le stava sussurrando all'orecchio, con una mano nella sua. Ho sentito il sangue salirmi al cuore e poi alla testa, quando ho visto che proprio in quel momento Arthur si è guardato segretamente alle spalle, prima di portarsi con ardore alle labbra la sua mano. Poi mi ha visto e ha abbassato gli occhi, atterrito e confuso. Lei invece ha sostenuto il mio sguardo con aria di sfida. Ho lasciato lo spartito sul pianoforte e mi sono allontanata. Anche se mi sentivo male, non volevo lasciare la stanza. Per fortuna si era fatto tardi e presto la comitiva si sarebbe sciolta. Ho raggiunto il camino e poggiato la fronte sulla mensola. Non è passato molto che ho sentito qualcuno chiedermi se mi sentivo bene. Invece di rispondere, dato che non ero nemmeno in grado di capire quel che mi dicevano, ho alzato la testa e ho visto che era il signor Hargrave. «Volete un bicchiere di vino?» mi ha chiesto. «No, grazie», gli ho risposto. Mi sono guardata attorno nella stanza. Lady Lowborough era accanto a suo marito e gli stava parlando in tono affettuoso, sorridendo, mentre Arthur si era seduto a sfogliare un libro di incisioni. Sono andata dunque a sedermi sulla sedia più vicina a lui, mentre il signor Hargrave, notando che le sue premure erano fuori luogo, ha pensato bene di mettersi in disparte. Dopo poco la comitiva si è sciolta e i nostri ospiti si sono ritirati nelle loro camere. A quel punto Arthur mi si è avvicinato con un sorriso e mi ha chiesto: «Sei molto arrabbiata con me, Helen?» «Non trovo che ci sia nulla di divertente», gli ho detto io, «a meno che tu non trovi divertente perdere il mio affetto per sempre». «Oh, perché tanto livore?» mi ha domandato prendendomi una mano. Io gliel'ho subito strappata con sdegno, se non addirittura con repulsione, dato che Arthur era chiaramente ubriaco. «Ebbene, mi metterò in ginocchio», ha detto, per poi gettarsi a terra con le mani giunte, fingendosi mortificato. «Perdonami, Helen, Helen, perdonami! Non farò mai più niente di simile!» Poi ha finto di scoppiare a piangere con tanto di fazzoletto attorno al naso. L'ho lasciato lì, da solo. Ho preso una candela e me ne sono andata in camera velocemente. Lui mi ha seguito, abbracciandomi da dietro, proprio mentre stavo entrando in stanza, pronta a richiudergli la porta in faccia. «Eh no, non mi scappi tanto facilmente», mi ha detto. Ma vedendomi così turbata, si è preoccupato e mi ha supplicato di riprendermi, che mi sarei rovinata la salute se non la piantavo. «Allora lasciami», gli ho chiesto, e lui ha obbedito all'istante. Per fortuna, perché ero veramente molto scossa. Mi sono accasciata sulla poltrona e ho fatto del mio meglio per cercare di riprendermi, perché desideravo parlargli con calma. Lui, nel frattempo, mi stava vicino senza osare toccarmi né aggiungere neppure una parola. A un certo punto, però, ha messo un ginocchio a terra, non per scherzare come poco prima, ma per abbassarsi alla mia altezza. Poi ha appoggiato una mano sul bracciolo della poltrona e ha detto: «Helen, non è stato niente, era un gioco, non devi neanche pensarci. Possibile che non riesci a capire?» ha continuato in tono più perentorio, «che non devi preoccuparti, che io ti amo tantissimo. E se anche talvolta mi capita di pensare a un'altra, devi concedermelo perché sono fantasie che si consumano in un secondo, come un lampo, mentre il mio amore per te è una fiamma sempre accesa come un sole. Sei una piccola tiranna, ecco cosa. Voglio che tu stia zitto un momento, per favore, Arthur!» l'ho interrotto. «E non pensare che questa sia una crisi di gelosia, perché sono perfettamente calma. Senti qui?» gli ho detto offrendogli la mano, che però subito dopo ho stretto attorno alla sua con tanta forza da rischiare di contraddire quanto avevo appena detto. La cosa l'ho fatto sorridere. «Potrà sembrarti divertente, signore», gli ho detto stringendolo ancora di più e fissandolo dritto negli occhi fino a fargli abbassare lo sguardo, «provocare la mia gelosia, ma bada di non provocare il mio odio, perché una volta che avrai esaurito il mio amore, ti sarà difficile riconquistarlo». «Va bene, Helen, non si verificherà mai più, ma credimi, non è stato niente. Avevo bevuto troppo e non ero presente a me stesso in quel momento. Ti capita spesso di bere troppo ed è un'altra delle cose che non sopporto». A quel punto ha alzato lo sguardo meravigliato che mi fossi scaldata tanto. «Sì, non te ne ho mai parlato prima per pudore, ma voglio che tu sappia che mi angoscia e che questo vizio potrebbe finire per disgustarmi se dovesse sfuggirti di mano, come temo possa accadere se non ti fermi in tempo. In ogni caso, il modo in cui ti sei comportato con Lady Loboraff non ha niente a che vedere con il vino, e questa sera eri di certo ben presente a te stesso». «Insomma, mi dispiace, che altro vuoi che dica?» mi ha risposto con aria offesa più che addolorata. «Ti dispiace che io abbia visto, senz'altro», gli ho detto con distacco. «Ah, se non avessi visto niente non soffriresti», ha commentato lui, guardando di nuovo a terra. Sentivo il cuore pronto a scoppiarmi nel petto. Ma ho cercato di mantenere la calma e ho chiesto: «Ah no?» «Certo che no», ha risposto lui impudentemente. «Non ho fatto proprio niente io. Sei tu che hai deciso di farne una questione». E il tuo amico, Lord Loboraf, cosa penserebbe se lo sapesse? E tu cosa ne penseresti se lui o chiunque altro avesse fatto con me quello che tu hai fatto con Annabella? Gli sparerai in testa. E come puoi allora affermare che sia una cosa da nulla, se tu stesso dici che ti sentiresti autorizzato a sparare in testa a qualcuno per la stessa offesa? È una cosa da nulla giocare con i miei sentimenti o con quelli del tuo amico? Cercare di allontanare una donna da un marito che l'adora, macchiandoti di una colpa ancora più disonesta? Consideri una cosa da nulla i voti matrimoniali, dunque, e giocare a infrangerli e indurre una donna a fare lo stesso? Credi che io possa amare un uomo capace di comportarsi in questo modo con indifferenza, convinto di non aver fatto nulla di male? Stai infrangendo anche tu i voti matrimoniali, disse di colpo, alzandosi e iniziando a fare su e giù per la stanza in preda all'indignazione. Hai promesso di onorarmi e di obbedirmi, mentre invece mi stai assillando, minacciando, accusando, mi stai trattando come un poco di buono. Se non fosse per la tua condizione, Nell, non te lo lascerei fare, non mi farò mai comandare da una donna, sappilo, neppure se è mia moglie. E cosa hai intenzione di fare allora? Vuoi continuare così, finché non arriverò a odiarti e potrai accusarmi di non aver onorato i miei voti? Dopo un momento di silenzio ha risposto: Ah, oh, tu non mi odierai mai. E dopo un istante ha aggiunto con forza: Non puoi odiarmi finché io ti amo. Come posso credere che mi ami davanti a una condotta simile? Al posto mio, se fossi io a comportarmi così, tu crederesti che ti amo? Continueresti a darmi fiducia? A onorarmi? Sono situazioni differenti, ha risposto. Le donne sono più costanti, possono amare una sola persona, appassionatamente e teneramente per tutta la vita. Sono creature benedette, tu soprattutto. Ma devi avere pietà di noi poveri uomini, Helen, concedici qualche libertà. Per dirla con Shakespeare, pur se ci vantiamo, sono più frivoli e incostanti, più tentennanti i nostri desideri vogliosi e più rapidamente son perduti e stanchi che non quelli di una donna. Intendi dirmi con questo che i tuoi desideri per me sono perduti e stanchi, mentre quelli per Lady Loboraf? No, il cielo mi è testimone che per me non è che polvere e cenere in confronto a te, e sarà sempre così se non mi allontani con la tua severità. Lei è figlia della terra, tu un angelo del cielo. Ti prego solo di non essere troppo severa nella divinità e ricordati che non sono che un povero imperfetto mortale. Avanti, Helen, perdonami, mi ha detto prendendomi la mano e guardandomi con aria innocente. Se ti perdono lo farai di nuovo, te lo giuro. Non giurare, mi basta la tua parola e vorrei poterti credere. Mettimi alla prova allora, Helen. Perdonami quest'offesa e vedrai che non accadrà più. Ti supplico, finché non ti sentirò pronunciare quelle parole, patirò le pene dell'inferno. Non ho pronunciato quelle parole. Gli ho solo messo una mano sulla spalla. L'ho baciato sulla fronte e poi sono scoppiata a piangere. Lui mi ha abbracciato e da allora siamo andati d'amore e d'accordo. Ha tenuto una condotta misurata a tavola e con Lady Loboraf si è comportato sempre bene. Il giorno dopo ha mantenuto il più possibile le distanze, senza tuttavia venir meno ai doveri dell'ospitalità. In seguito si è dimostrato affabile e niente di più, almeno davanti a me. Ma credo anche in altri momenti, dato che lei sembra imbronciata e Lord Loboraf è di buon umore e gentile con il padrone di casa. Io sarò contenta quando se ne saranno andati, perché Annabella mi è talmente antipatica che trovo difficile comportarmi in modo educato con lei. Ed essendo l'unica altra donna della comitiva, finiamo per passare parecchio tempo insieme. La prossima volta che verrà a trovarci la signora Hargrave, accoglierò la sua visita con grande sollievo. Ho pensato di chiedere ad Arthur il permesso di invitarla a stare da noi finché non ripartono i nostri ospiti. Credo che lo farò. A lei farà piacere questa premura, e sebbene la sua compagnia non mi entusiasmi, sarà più che benvenuta come terza signora insieme a me e a Lady Loboraf. Ci siamo trovate da sole per la prima volta dopo quell'episodio, il giorno immediatamente successivo, quando, dopo aver fatto colazione, smaltito la corrispondenza, letto il giornale e fatta un po' di conversazione, gli uomini erano usciti. Siamo rimaste sedute in silenzio per qualche minuto. Lei presa dal suo lavoro e io da un giornale che tuttavia avevo finito di leggere già da 20 minuti. Il mio disagio era penoso e immaginavo dovesse essere ancora peggiore quello di lei, ma mi sbagliavo. Ha rotto il silenzio per prima e con spavalderia e di stacco, ha detto: "Vostro marito era piuttosto su di giri ieri sera, gli capita spesso?" Avevo il sangue al cervello, ma di certo preferivo che Annabella si desse per la condotta di Arthur quella spiegazione piuttosto che un'altra. No, e sono sicura che non accadrà più. Lo avete rimproverato a dovere, quindi? Gli ho solo fatto presente che non approvo quel genere di comportamento e mi ha promesso che non accadrà di nuovo. In effetti, stamattina sembrava piuttosto giù, ha commentato. E voi, Helen, avete pianto molto, si vede. Ah, che preziosa risorsa sono le lacrime per noi. Ma ditemi, riuscite a farvele venire a comando? Niente affatto, e non riesco a immaginare che qualcuno possa fare una cosa del genere. Non so, non mi è mai capitato finora. Ma se Loborath avesse una simile condotta, farei piangere lui piuttosto. Capisco che siate tanto seccata. Io mi arrabbierei con mio marito per molto meno. Ma del resto lui non farà mai niente del genere. Lo tengo sotto controllo a dovere. Siete sicura di non esagerare nel prendervi tutto questo merito? Da quanto so, Lord Loborath era moderato nel consumo di alcol già prima di sposarvi. Ah, vi riferite al vino, dunque. Il vino in effetti non è un problema. E quanto invece al fatto di desiderare un'altra donna, non ci saranno problemi neppure in questo, dato che bacia la terra su cui cammino. Dite davvero? E siete sicura di meritare tanto? Non saprei, Helen, in fondo siamo tutte creature fallibili e nessuno di noi merita di essere idolatrato. E voi? Siete sicura che il vostro Huntington valga davvero tutto l'amore che gli date? Non sapevo cosa rispondere, ero furibonda, ma ho cercato di nascondere le manifestazioni esteriori del mio sentire, limitandole a un morso sul labbro mentre fingevo di concentrarmi su un lavoro. Comunque, ha detto lei a quel punto, approfittando del vantaggio, consolatevi con la certezza di valere voi stessa l'amore che ricevete da lui. Mi lusingate, le ho risposto. Faccio del mio meglio per meritarlo. Dopodiché ho cambiato argomento. Capitolo 28, 25 dicembre. Lo scorso Natale ero una sposa. Il mio cuore era colmo di gioia e ardenti speranze, sebbene non mancassero anche i timori e i presentimenti. Adesso sono una moglie, la mia gioia è più moderata, ma non è scomparsa. Le speranze ridotte, ma non sparite. Le paure sono aumentate, ma ancora non del tutto comprovate, e, grazie a Dio, sono anche una madre. Mi è stato concessa un'anima da educare per il cielo, offrendomi la possibilità di conoscere una serenità diversa e una grande fiducia nel futuro. Dietro ogni mia nuova speranza si nasconde una paura. E quando stringo il mio piccolo lo guardo dormire, incantata e sognante, ci sono sempre due pensieri che contengono la mia felicità. Il primo è: e se dovessi perderlo? E l'altro: e se passasse il resto della vita a maledire d'essere nato? Nel primo caso mi conforta sapere che anche dopo essere stato colto, questo bocciolo non appassirebbe, ma vivrebbe, anzi, in un terreno più adatto alla sua piena fioritura, sotto un sole più caldo. Certo, sarei privata del piacere di veder maturare l'intelligenza di mio figlio, ma a lui sarebbero risparmiate le pene e i peccati di questo mondo, e questo, capisco, non sarebbe affatto un male. Ma al solo pensiero mi si stringe il cuore. So che non riuscirei a vederlo morire, né ad abbandonare in una tomba gelida questo corpicino così pulsante di vita, carne della mia carne, scrigno di quella scintilla che ho il dolce compito di proteggere. Prego che il cielo lo risparmi, quindi, perché possa essere la mia consolazione, la mia gioia, la mia vita, e perché io possa essere per lui uno scudo, una maestra, un'amica, capace di accompagnarlo tra i pericoli della gioventù, di insegnargli come essere un timorato di Dio qui sulla terra e un santo onorevole in cielo. Nel secondo caso, invece, quello in cui potrebbe crescere e disattendere queste mie speranze e deludere i miei sforzi, diventare un uomo dedito al vizio e al peccato, una maledizione per il prossimo e per se stesso, allora, Signore, prendilo, portalo ora dal mio grembo al tuo, malgrado la mia pena, prendilo finché è ancora un agnello innocente. Caro, piccolo Arthur, come dormi beato. Sei la miniatura di tuo padre, come una spolverata di neve appena caduta dal cielo, senza macchie. Prego che Dio possa difenderti dai suoi errori. Dal canto mio, farò il possibile per mantenere alta la guardia e proteggerti. Ecco che si sveglia e allunga le braccia verso di me, apre appena gli occhi e incontra i miei, però non risponde. Sei un piccolo angelo, ancora non mi conosci, non puoi quindi pensare a me né amarmi, ma sapessi quanto amore c'è per te nel mio cuore, quanta gratitudine per la gioia che mi dai. Quanto vorrei che anche tuo padre la sentisse, che potesse capire quello che provo e cosa spero, e magari partecipare di questo amore e di queste speranze. Ah, se condividesse anche solo la metà dei miei valori e dei miei sentimenti, sarebbe una benedizione per entrambi. La sua mente potrebbe nobilitarsi, purificarsi, lui potrebbe sentirsi più affezionato alla sua casa e anche a me. Magari si interesserà via via sempre di più al bambino, vedendolo crescere. Adesso è lieto del suo arrivo e si augura che diventi un bel giovane e un suo degno erede, non posso dire altro. All'inizio la sua presenza lo divertiva e stupiva, sebbene non abbastanza da volerlo toccare, mentre adesso lo tratta con indifferenza o con impazienza quando nota la sua totale dipendenza, la sua impassibile ottusità, come la chiama lui, o le mie eccessive attenzioni per i suoi bisogni. Quando mi occupo del bambino, spesso viene a sedersi accanto a me e pensavo che fosse per godere insieme del nostro prezioso tesoro, invece ho capito che lo fa solo per passare un po' di tempo in mia compagnia e fuggire così alla solitudine. Certamente è benvenuto, ma si sa che il miglior complimento per una madre è ammirare il suo bambino. C'è stato un episodio in particolare che mi ha turbato. È accaduto 2 settimane circa dopo la nascita del piccolo, quando eravamo entrambi nella stanza del bambino. Ero china sulla mia creatura, che la contemplavo in adorazione e credevo che fosse lo stesso per il padre, ma di colpo infranse la mia illusione dicendomi con un certo nervosismo: Helen, se continuerai ad adorarlo in questa maniera, io finirò per odiarlo. Sei pazza di lui. Lo guardai meravigliata, per accertarmi che parlasse sul serio. Non hai altri pensieri, aggiunse con lo stesso tono. Io posso entrare e uscire, esserci o non esserci, essere felice o triste, per te non cambia nulla. Questo orribile esserino ti ha imbambolato e di me non te ne importa più. Sbagli, Arthur. Quando ci sei anche tu, la mia felicità raddoppia. Saperti vicino mi fa felice, anche se non ti guardo. E se penso a nostro figlio, mi auguro sempre che tu condivida i miei stessi sentimenti, anche se non dico niente. E credi che io possa sprecare i miei sentimenti e i miei pensieri su una stupida creatura come quella? È tuo figlio, Arthur. E se per te questo non conta nulla, allora diciamo che è mio figlio e devi mostrare rispetto per i miei sentimenti. Ah, oh, va bene, non ti offendere, mi è scappato, replicò sulla difensiva. Il bambino mi piace, ma non posso adorarlo come te. Allora, come punizione, adesso bada tu a lui, esclamai alzandomi per mettergli il bambino in braccio. Oh no, Helen, no, rispose agitato. Invece sì, se lo tieni stretto potrai amarlo di più. Così glielo misi tra le mani e attraversai la stanza sorridendo del suo disagio e dell'aria imbarazzata che aveva mentre si sedeva teso e lo guardava come se appartenesse a una specie completamente diversa dalla sua. Oh, prendilo tu, Helen, mi chiese alla fine. Se non lo prendi lo lascio cadere. Provai compassione per il suo disagio e soprattutto per la posizione del piccolo e lo liberai dal peso. Arthur, dagli un bacio, non l'hai ancora baciato, gli dissi chinandomi in ginocchio e avvicinandogli il bambino. Veramente preferirei baciare la madre, rispose abbracciandomi. Ecco, che ne dici? Mi rimisi a sedere in poltrona e coprii la mia creatura di baci per compensare il rifiuto del padre. Lo vedi? In un solo minuto hai dato più baci a quella stupida ostrica ingrata di quanti ne hai dati a me nelle ultime 3 settimane, osservò il padre geloso. Vieni qui, forza, avido monopolizzatore, e te ne darò quanti ne vuoi. Ecco qui, ti bastano? Meriteresti che non te ne dessi più finché non dimostrassi di amare questo bambino da bravo padre. Mi piace questo diavoletto. Arthur. D'accordo, angioletto, disse dandogli un pizzico affettuoso sul nasino. Ma non posso amarlo. Come potrei? Lui non può amarmi così, non può amare te. Non comprende quel che gli dici e non prova gratitudine per le attenzioni che gli dai. Quando potrà dimostrarmi un po' di affetto, allora forse potrò volergli bene. Per il momento mi pare solo un edonista, egoista e stupido. Se trovi in lui qualcosa di adorabile, niente da dire, ma mi domando come tu faccia. Se fossi tu stesso meno egoista, Arthur, non lo vedresti così. Ah, magari hai ragione, tesoro, ma del resto le cose stanno proprio in questo modo e non c'è nulla da fare.